pescatore che sai leggere il vento, senza armi a difendere il mondo. Con la pace fai la guerra, la guerra. La tua vita pesa un filo di paglia. Ogni giorno sempre in trincea, contro le bombe, tu con la tua idea. Chi non parla lascia un lascia passare, a chi con la guerra uccide anche il sole. Sempre in prima linea, tra le bufere del mondo, contro le ingiustizie, sempre la faccia nel vento. Chi di violenza nutre il suo sguardo, è solo un debole, un uomo finto. Il pacifista ha il fiuto lungo, il pacifista abbraccia il mondo. Vai per la tua strada, che nobile è la tua meta. Tu sei il sale del mondo, il sale della vita. Del mare il frumento, la costa, tu il grano del cielo, una festa. Tu che sai vedere nell'uomo la sua parte più giusta. Preso per matto dai senza cervello, lui crede ancora che ogni uomo è fratello. Un utopista pieno di belle parole, che fa il buonista solo per farsi notare. La terra è piena di guerrafondai, che fanno a botte per far nascere eroi. Più ci sono guerre, più sono potenti. Più ci sono morti, più sono importanti. Sempre in prima linea, tra le bufere del mondo, contro le ingiustizie, sempre la faccia nel vento. Chi di violenza nutre il suo sguardo, è solo un debole, un uomo finto. Il pacifista ha il fiuto lungo, il pacifista abbraccia il mondo. Vai per la tua strada, che nobile è la tua meta. Tu sei il sale del mondo, il sale della vita. Del mare il frumento, la costa, tu il grano, del cielo una festa. Tu che sai vedere nell'uomo la sua parte più giusta. Quando muore un pacifista, molti dicono se l'è cercata. In effetti lui per la sua idea, lui ha donato la sua vita. Vorrei vedere quanti di questi saprebbero fare altrettanto. Seminare nel cuore dell'uomo la speranza di un cambiamento. Sempre in prima linea, tra le bufere del mondo, contro le ingiustizie, sempre la sua faccia nel vento. Chi di violenza nutre il suo sguardo, è solo un debole, un uomo finto. Il pacifista ha il fiuto lungo, il pacifista abbraccia il mondo. Vai per la tua strada, che nobile è la tua meta. Tu sei il sale del mondo, il sale della vita. Del mare il frumento, la costa, tu il grano, del cielo una festa. Tu che sai vedere nell'uomo la sua parte più giusta.